24 mattino con Oscar Giannino. Eccoci qua, cari ascoltatori, buon anno, buon inizio d'anno che è iniziato ieri in realtà, però oggi siamo al primo gennaio delle nostre programmazioni post festive di ieri, quindi siamo al 2 di gennaio. Un augurio a Basilio e Gregorio, che sono i santi della giornata. E vi dico subito su cosa vorrei che chiamaste all'800240024, mentre per le opinioni 349-238-6666 lo sapete. Sì, sono anch'io solo oggi e rimarrò in questi giorni fino a dopo la Befana, perché Maria Tella ancora si sta riposando, e l'abbraccio dando gli auguri vostri anche a lei, oltre che ai miei personali. Quindi ancora in queste mattine tenete botta a sentirmi da solo, per così dire. Su che cosa vorrei la vostra opinione? La vorrei sul messaggio di fine anno del capo dello Stato Sergio Mattarella. Inevitabilmente, poiché ieri i quotidiani non erano in edicola, moltissimi dei grandi giornali italiani oggi aprono su questo, o comunque dedicano commenti in prima pagina, anche se ieri già sui siti, in televisione, ovviamente l'argomento è stato dominante. Per esempio il Corriere della Sera oggi apre sui nuovi richiami di Mattarella: basta insulti, astio sulla manovra, verifica e confronto, no alle tasse sulla bontà. E il Messaggero c'ha un commento in prima pagina: tra le due Italie il presidente ne sceglie una. Ecco, e questo lo firma Mario Aiello. Perché cito questi due quotidiani? Perché la questione che mi interesserebbe in particolare capire nei vostri commenti, cari ascoltatori di Radio 24 di 24 Mattina, è in particolare se voi ritenete, abbiate ascoltato meno, siate state tra i 10 milioni, un grande successo di ascolti in televisione e sui social, un ascolto record, e anche sui social sono state toccate vette molto elevate sui social con gli account del Quirinale, ma abbiate letto direttamente o abbiate solo sentito poi le sintesi dell'intervento del capo dello Stato, mi interesserebbe capire se pensate che il suo appello è stato rivolto a principi generali che dovrebbero unire e segnala la coesione della politica del paese, al di là delle famiglie culturali e partitiche di appartenenza, o se invece abbiate ravvisato, come ritiene qualcuno, per esempio, ripeto, il titolo del Messaggero dice tra le due Italie il presidente ne sceglie una, come dire, è stato un campo contro l'altro, è stato di parte. Voi ritenete che l'appello che ha fatto e gli argomenti che ha toccato Sergio Mattarella siano di parte? In sintesi, l'appello all'Italia che ricuce, come l'ha chiamata il Presidente della Repubblica, dicendo che bisogna essere, ci sono dei principi che ci uniscono, e questi principi lui li ha enucleati, li ha sintetizzati nel grande appello all'Italia solidale che si dà da fare per gli anziani, i deboli, i disabili, ma anche che comprende l'Italia degli immigrati che si integrano, che lavorano, che sono oltre 5 milioni e devono sentire di essere parte di una comunità nazionale, non di essere nemica della comunità nazionale. Sia loro devono integrarsi, non essere nemici, ma non devono neanche essere dipinti e identificati come nemici. E questo ovviamente ha dato fastidio a qualcuno che ritiene che gli immigrati nel nostro paese siano esterni, estranei, e bisogna dire stop e basta. L'appello esplicito contro il raddoppio dell'IRES contenuto in legge di bilancio al terzo settore, appunto, ecco, tutti questi temi che ha toccato il capo dello Stato, secondo voi sono la scelta di un'Italia contro l'altra? Ma io ritengo di no. Per esempio, io ritengo che ho ringraziato anche ieri su Twitter il capo dello Stato, perché tra le altre cose positive che mi sembra il suo appello, che è un appello a un'Italia con valori trasversali, non è un appello che sia volto a dividere o a distinguere, ha consentito ieri a chiunque di poter dividere le reazioni, e secondo me chi ha reagito accusando il capo dello Stato di impropria invadenza politica è perché punta appunto sulla divisione, sulla ricerca del nemico, sull'odio come leva la politica. Carità di Dio, voi lo potrete considerare legittimo, a me sembra uno dei temi del nostro spirito del tempo, e devo dire la verità, un rischio molto forte, perché in passato l'appello a ricercare il nemico per costruire consensi in politica è stato il segno di un'epoca politica molto molto divisiva. Comunque, questo è quello che vi chiedo. Sì, è vero, naturalmente qualcuno nota subito: ah, però no, ti sei dimenticato di dire che hai anche criticato la legge di bilancio. E certo, l'ha criticata sul fatto che il Parlamento ha tenuto la bocca chiusa perché non aveva tempo. Non è che ha criticato, ha rilevato che non c'è stato il tempo, e questa è una cosa seria, significativa, e si è augurato che per questo ci possa essere un esame serio adesso che le norme entrano già in vigore, perché lui l'ha firmata la legge di bilancio, il capo dello Stato, visto che non c'è stato tempo di esaminarle. E questo mi sembra un preciso richiamo del Presidente della Repubblica ai suoi stessi doveri, perché ha dovuto giustificare il perché l'abbia firmata anche se il Parlamento non ha avuto tempo e modo di esaminarla. E questo è un precedente grave, caro ascoltatore, che mi dici: ah, il Presidente della Repubblica critica la maggioranza. Non è che critica la maggioranza, quello è un altro aspetto, cioè le regole che prevedono che ogni disegno di legge con disposizioni di bilancio debba essere esaminato rigorosamente articolo per articolo e poi con un voto finale, non sono state rispettate. Quelle regole sono a salvaguardia per tutti, non solo per maggioranza attuale e opposizione attuale, e quindi mi preoccupa molto, a dire la verità, che qualcuno di voi pensi che se un capo dello Stato, la cui firma è necessaria per promulgare la legge di bilancio, cita questo nel suo messaggio di fine anno, lo fa per criticare e quindi perde la sua credibilità in quanto autorità terza, suprema garante della Repubblica e del nostro ordinamento. E casomai è il contrario, sta richiamando a se stesso il fatto che volendo poteva eccepire e non firmare, capite? E naturalmente per evitare poi di finire in oltre i limiti previsti dalla Costituzione per l'azione di bilancio, e quindi avremmo dovuto prorogare per dodicesimi la spesa precedente, ha evitato di farlo. Però altri punti oltre a questi, comunque fateci sapere, intervenite, telefonate all'800 24 0024. Beh, sono quelli dei messaggi di Capodanno dei vice premier, questa è la novità di questo fine anno, non il solo Mattarella ma i 5 Stelle, Grillo, Salvini e Di Maio. Salvini naturalmente in divisa, colpi dello Stato. Attenti che su questo il Presidente della Repubblica ce l'aveva con lui quando ha detto che le divise delle forze armate e dei corpi dello Stato sono patrimonio di tutti, cioè non bisogna appropriarsene politicamente. Ce l'aveva esattamente con la mania della felpa del Ministro dell'Interno, perché evidentemente ha richiamato la necessità di un maggior rispetto istituzionale rispetto a questa appropriazione e rotazione delle felpe, per così dire. Comunque c'è un tema aperto, come sapete, sulle espulsioni dei 5 Stelle. Abbiamo avuto un fine anno in cui per i 5 Stelle da una parte è sembrato superato il vincolo dei 2 anni, ciò che li distingueva dai vecchi partiti. Io ho detto: beh, si adeguano. E dall'altra parte però le espulsioni dei dissidenti De Falco, De Bonis, Moia e Valli, il che rispetto ai vecchi partiti secondo me li rende peggio, perché battere i tacchi, voti e spello è peggio dei vecchi partiti. Poi nei messaggi e negli interventi di fine anno Di Maio ha detto che invece la regola dei 2 mandati resta, ma invece per le espulsioni mano dura. Ecco, questa mano dura ha moltissime le dichiarazioni, le interviste del comandante De Falco sui giornali anche stamattina, sul Corriere della Sera per esempio l'estromesso De Falco dice: nel Movimento 5 Stelle non hanno attitudine democratica, i miei prossimi voti vedrò caso per caso. C'è un'intervista anche alla senatrice Nunes che dice: pesa la casa legge, non è più uno vale uno, deputati e senatori soggetti all'esecutivo. Qui il punto politico, al di là ovviamente dell'interesse per il dibattito interno ai 5 Stelle, le regole dei 5 Stelle, abbiate votato 5 Stelle oppure no, è sul fatto che siamo vicini a una soglia di espulsioni nella quale al Senato poi si inizia a ballare per la maggioranza di governo, e vedremo a quel punto che cosa può accadere. Rispondo all'ascoltatore subito che mi dice: ah, perché dici che il presidente ce l'ha con Salvini? Salvini, perdonate un secondo. era il mio naso che perdeva idraulicamente, quindi ve l'ho risparmiato. Perché un ascoltatore dice: ah, ma perché ce l'hai con Salvini? Salvini è stato dei due vice premier quello che ha detto esplicitamente che di non sentirsi sotto accusa, ha aderito immediatamente alle parole di Mattarella. Verissimo, il titolo del Corriere della Sera stamattina è adesione fulminea alle parole del Colle. Se vuoi un'interpretazione, caro ascoltatore, è perché ha immediatamente capito che il bersaglio era lui e quindi astutissimo, con rapidità ha detto di riconoscersi integralmente nelle parole del capo dello Stato, cioè ha evitato accuratamente di alimentarla la polemica a Salvini. Ma questa è abilità politica, è astuzia. Con chi puoi pensare che ce l'avesse il capo dello Stato richiamando che le divise dei corpi dello Stato appartengono a tutti e sono un patrimonio comune che va al di là e viene prima della politica, perché sono le istituzioni, se non col ministro che non fa altro che girare con le felpe una volta la polizia, una volta i vigili del fuoco, eccetera eccetera. Beh, non ce l'aveva con te o con me, se mi metto le magliette dei corpi dello Stato, ce l'aveva evidentemente con qualcun altro. Sottolineo poi che tra i temi il capo dello Stato non è in corso, invece non è stato sollevato, e questa deve essere una decisione davvero ben ponderato, alcun riferimento alla questione che invece proprio gli espulsi 5 Stelle, il comandante De Falco, hanno richiamato come estremamente divisiva e che avremo nell'agenda politica tra poco, cioè quella della risposta da dare alle regioni che chiedono l'autonomia rafforzata. Io credo che abbia fatto bene il Presidente della Repubblica ad aspettare che questa vicenda abbia una risposta precisa e concreta sul governo, da parte del governo. Il tema delicato che ho più volte affrontato già nelle trasmissioni di fine 2018, la versione di Oscar, è quello delle risorse da attribuire alle regioni, che in linea con quanto previsto dall'articolo 116 della Costituzione chiedono il rafforzamento della loro autonomia. E qui c'è un punto delicato, perché in sud alcune voci del sud sono insorte, penso al professor Viesti, ma penso anche a un articolo che mi ha molto colpito in questi l'ultimo dell'anno, il penultimo giorno dell'anno anzi, con del professor Sabino Cassese sul Corriere della Sera, un editoriale che mi ha molto colpito perché per la prima volta in tutta la mia vita, credo, ho trovato un intervento del professor Cassese, mi rendo conto di quello che dico, cari ascoltatori, infondato in punto di diritto. E questa è una cosa che mi ha così colpito che io ho passato due giorni a ragionare dicendo: beh, ma naturalmente avrà ragione il professor Cassese, chi sei tu, pulce dell'universo, a poter dire che sbaglia? Eppure sbaglia, e la cosa mi colpisce molto. Era proprio sul tema dell'autonomia e della richiesta di autonomia rafforzata avanzata con, anche con due referendum consultivi a sostegno in Veneto e da parte del Veneto, da parte della Lombardia. Poi ci sono anche altre richieste, c'è quella dell'Emilia Romagna senza referendum consultivo a sostegno, e poi altre regioni che sono interessate. E mi ha molto colpito leggere l'intervento del professor Cassese, secondo il quale questa devoluzione di richiesta in coerenza all'articolo 116 non deve avvenire con trasferimento di risorse. E questa cosa, mi dispiace professor Cassese, non è così. Non è così, perché il combinato disposto, come si suol dire, di articolo 116 e 119 questo prevede, ma soprattutto lo prevede esplicitamente la legge delega 42 del 2009, i cui decreti delegati poi rappresentano l'incerta ossatura di quello che c'è di autonomismo fiscale di autonomismo rafforzato nel nostro paese. E il tema è esplicitamente previsto, cioè alla devoluzione richiesta secondo le procedure costituzionali da queste regioni deve corrispondere l'ammontare delle risorse per la loro esplicazione, che può avvenire o con aumento di quote di partecipazione a tributi nazionali, non può avvenire invece, questo per sentenza della Corte, con la definizione da parte delle regioni di imponibili nuovi e quindi di proprie tasse, definendole autonomamente. La Corte Costituzionale in questo più volte si è espressa, ha detto: finché non c'è una legge quadro nazionale che consenta in materia tributaria a queste regioni, le regioni non possono farlo. Oppure appunto con il trasferimento di risorse da parte dello Stato, identificate con precisione quelle che servono centralmente in quella regione a esplicare le funzioni che vengono trasferite. Leggere che il professor Cassese considera questa roba come impropria e illegittima mi ha molto colpito. Questo potrebbe essere uno dei temi all'inizio dell'anno su cui vedrete l'attrito tra 5 Stelle e Lega potrebbe effettivamente aumentare. Allora, Oltre a tutti questi temi, poi i giornali questa mattina fanno una grande cavalcata su ancora di resumere il 2018, sui temi che ci aspettano nel 2019, le incertezze economiche e così via. Sul Messaggero trovate persino un mio ennesimo intervento su questo argomento. Oltre ad alcune novità, perché adesso inizia con l'anno nuovo, per esempio, l'obbligo di fatturazione fiscale tra privati, e vedrete che sarà un tema sul quale inevitabilmente l'attenzione salirà, perché vedremo quanti problemi si creeranno di fronte alla mole di miliardi di dati che l'Agenzia delle Entrate dovrà processare, e i punti che sono ancora tanto aperti in attesa di chiarimento per i contribuenti. Attenzione del Sole 24 Ore, e rinvio al Sole 24 Ore per la bellezza dei 161 decreti attuativi che saranno necessari per far passare dalle parole alla realtà la legge di bilancio. Non dedico invece una sola parola, ma questo lo faccio da mesi, all'ennesimo rincorrersi di indiscrezione sui requisiti più o meno ristretti del reddito 5 Stelle e quota 100. Io, quando vedrò i decreti attuativi, ne parlerò, perché 4 mesi di presa in giro, perdonatemi cari ascoltatori, a inseguire particolari con nessun testo in mano, e ancora la legge di bilancio, abbiamo solo l'ammontare per finanziare queste misure senza nessun particolare, secondo me rendono indecente continuare a parlare. Si applicherebbe a questo i lavori a distanza di 500 km, si partiva da non oltre 50 km, ve lo ricordate? La mia domanda ai miei colleghi: ci avete un testo? No, ma ci dicono. Ecco, a me il mi dicono no, non mi basta più dopo tanti mesi. Vedremo come decideranno di attuarlo. Quello che è sicuro è che hanno dovuto tagliare i soldi dopo aver fatto gli sbruffoni con l'Europa. E vi richiamo invece, ecco, fattualmente, bella l'attenzione perché fattuale del Messaggero, che apre con il titolo "Pensione maxi esodo degli statali", perché tra chi ha maturato i requisiti, quelli normali della legge Fornero, e chi potrà usare quota 100, punto interrogativo, perché questo lo capiremo appunto quando avremo il testo su come funziona quota 100, quest'anno, nel 2019, potrebbero andare in pensione alla bellezza di 200.000 statali, sul totale dei 3.360.000 circa. E 200.000 in un anno, per alcuni settori fondamentali che con il blocco al turnover già sono all'osso, ma all'osso davvero, questa volta figuratevi, io non sono sospettabile di essere un difensore di avere ranghi della pubblica amministrazione o pimi e grassi. E qui il punto è che 200.000 in un anno in alcuni settori, sanità, forze dell'ordine e così via, aprono dei problemi seri. E qui il rinvio è a un'altra norma della legge di bilancio che aveva promesso rimpiazziamo il turnover, poi ve lo ricordate, c'era una questione di conferma delle liste. Le liste per i vincitori, per gli idonei al concorso, sono state confermate solo per liste degli ultimi anni, con protesta degli idonei. Però le assunzioni pubbliche partono solo da novembre, per diminuire la spesa totale. 4, c'è aperto il problema degli concorsi speedy voluti dal ministro Bongiorno, e adesso la questione diventa se davvero ce la si fa in così pochi mesi di fronte a 200.000 che se ne vanno. Ma fermiamoci qua un secondo, perché abbiamo un momento di pubblicità e un ospite, perché ci ha raggiunto il sindaco di Firenze, Dario Nardella, e con lui commenteremo almeno tre cose. Tra poco, intanto pubblicità. Mattino. Eccoci qua, pubblicità breve in questi giorni di vacanza, ahimè, ma spero che torni, perché altrimenti... Allora, con noi il sindaco di Firenze, Dario Nardella, buongiorno e grazie di essere con noi, sindaco. Buongiorno Giannino e buongiorno agli ascoltatori. Allora, perché dicevo tre temi? Perché ce n'è uno in particolare che secondo me è in piena linea con lo spirito dell'intervento del Presidente della Repubblica di fine anno, perché su iniziativa di Firenze di chi guida Firenze verrà presentato in questo inizio d'anno in Parlamento un tema che ha a che vedere con i valori, appunto, come si costruisce più integrazione e coesione nazionale, ed è il ritorno, il rafforzamento dell'educazione civica, l'insegnamento dell'educazione civica nella scuola. È così? Sì, è così, perché si avvicina il termine per la raccolta delle famose 50.000 firme che la Costituzione prevede per le proposte di legge di iniziativa popolare. e abbiamo superato ormai questo limite, siamo già oltre 60.000 firme. Dopodomani, il 4 gennaio, le porteremo in Parlamento, il quale sarà tenuto ad esaminare il testo a questo punto, ma noi faremo di tutto perché lo voti anche, perché non è obbligatorio per il Parlamento votare le leggi di iniziativa popolare, come sappiamo in passato purtroppo non hanno avuto molta fortuna, ma noi crediamo che questo tema, come ha anticipato lei, cioè la reintroduzione dell'educazione civica sotto forma di una materia obbligatoria con voto, educazione alla cittadinanza, sia un tema oggi diventato davvero cruciale, di emergenza. Del resto anche molti riferimenti del Presidente della Repubblica nel discorso di Capodanno riportano alla necessità di ritrovare un codice di regole basilari che si deve imparare da scuola, e se non le impari a scuola non le impari più. Ecco, anche perché io torno a sottolineare, mi ha colpito molto il fatto che ci siano state reazioni alle parole del Capo dello Stato come ad additare improprie inframmettenze politiche, un'invasione di campo nella politica, proprio perché ho trovato che invece il richiamo a dei valori che sono quelli un po' anche della parte prima della Costituzione, insomma, se quello diventa divisivo in Italia, qualunque sia la scelta di chi ci ascolta e degli elettori suoi a Firenze o nazionali, vuol dire che qualcosa di serio si sta un po' sgretolando, perché per me vengono prima queste cose di ogni legittima scelta politica, purché sia democratica, ecco, purché non sia basata su razzismo e violenza, perché in questo ci sono le leggi dell'ordinamento che lo proibiscono. Ma quello che mi ha colpito è che la vostra iniziativa ha a che fare con un tema che apparentemente un tempo sarebbe stato considerato, vabbè, scontato. Adesso non è più scontato per niente. Perché, se posso farle una domanda, c'è una colpa della politica? Non le chiedo di questo o quel partito. C'è evidentemente però una colpa di qualcuno, se oggi una delle leve politiche fondamentali del dibattito pubblico, non parlo solo della politica, parlo dei commentatori, i giornali, i media, la maniera di impostare il dibattito pubblico, insomma, è diventata la divisione, la ricerca di un nemico, l'odio più che ciò che unisce. Sì, oggi noi assistiamo a un miscuglio tra odio e vittimismo. C'è proprio una comunicazione politica che si sta imponendo, che è quella di individuare sempre un nemico, perché è più facile, perché è più comodo. Può essere l'Europa un giorno, un altro giorno gli immigrati, un altro giorno lo Stato, un altro giorno ancora un altro paese, insomma. E accanto a questo nemico poi c'è una retorica di vittimismo. Io la trovo molto pericoloso, perché questo linguaggio politico infetta anche il dibattito sociale. Il cittadino non si chiede più cosa posso fare io per migliorare la mia città, la mia comunità, ma se una cosa non funziona individua subito un responsabile, che certamente è sempre qualcun altro, d'accordo? La cosa che io credo stupefacente anche nel discorso di Mattarella è il seguito che ha avuto, credo battendo ogni record negli ultimi anni. Sì. E lo stesso Presidente della Repubblica ha risposto a questa grande attenzione di opinione pubblica al discorso, dicendo evidentemente c'è un disperato bisogno di ritrovare l'unità intorno ad alcuni valori. Ecco, questo paese sta un po' smarrendo. E la nostra proposta, che non a caso nasce dai sindaci, nasce dalle città, questo secondo me, anche secondo me è importante, sì. Cioè non viene dalla politica romana, viene da chi quotidianamente sta in mezzo ai cittadini. La proposta di rimettere la materia dell'educazione civica non come una delle tante facoltative, insomma, come l'ora di religione, no? che ahimè viene sempre minimizzata. Poi vabbè, c'è tutto il discorso di chi davvero la vuol fare e chi non la vuol fare, è un altro discorso, però ecco, l'educazione civica non più una materia facoltativa, ma qualcosa di strutturato che riguarda poi l'educazione ambientale, l'educazione alimentare, il rispetto delle regole, imparare la Costituzione. Ecco, su questo i cittadini riscoprono una consapevolezza, attenzione, che qui se non ricominciamo da capo nel riconoscere, rispettare le persone e le cose, noi finiamo per vivere una dimensione di totale anarchia, nella quale ogni individuo trova il colpevole nel suo vicino di casa, ogni politico avrà vita facile in questa narrazione vittimistica del nemico, e così però un paese va all'aria. Ecco, io vedo una sorta di antidoto in questa reazione che c'è da parte dell'opinione pubblica. In un certo senso i cittadini sono anche un po' più avanti dei politici, se la vogliamo mettere così. Ecco, io sono molto d'accordo anche con l'indicazione che ha dato il sindaco di Firenze, questa esplicazione. Che cos'è oggi l'educazione civica? L'educazione civica non è oggi, secondo me, concepibile come io, che appartengo a una generazione più avanti negli anni, l'ha conosciuta nella scuola, cioè delle elementari, troppo elementari secondo me. Noi eravamo molto più avanti con gli anni e l'esperienza che avevamo già nella mia Torino, ahimè, insanguinata dalla violenza politica, nozioni su come funziona lo Stato e quali sono i diritti e i doveri dei cittadini. Oggi per l'educazione civica, nel mondo in cui viviamo, io penso per esempio agli obiettivi di sostenibilità come molto più ampiamente definiti dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, e che ci impegnano anche in un calendario internazionale di obiettivi di qui al 2030 e poi anche più avanti fino al 2050 nel nostro paese, e l'alleanza della sostenibilità, cioè tutti i diversi soggetti che si sono impegnati nell'adozione, nel considerare quell'agenda che significa una sostenibilità sociale, non solo ambientale, quindi che riguarda il lavoro, che riguarda la dignità, che riguarda l'integrazione per chi viene fuori, viene da fuori del nostro paese, che riguardano l'occupabilità, che riguardano la conciliazione tempi lavoro in famiglia, quindi un welfare non solo per gli anziani e per le pensioni, ma per i giovani e per la famiglia e per le donne. Ecco, tutto questo che è, per dirla in una sola parola, in Italia l'agenda che propongono i diversi soggetti, il portavoce nazionale Enrico Giovannini, se ve lo ricordate, l'ex ministro ed ex presidente dell'Istat, andate a vedere su il sito quanto sia ampia quell'agenda. Oggi quello è fare educazione civica. Io sono molto d'accordo con quello che ci ha detto il sindaco di Firenze. Io faccio i miei auguri personali di cittadino alla speranza che il Parlamento esamini quella questione. Nella legge di bilancio tocchiamo un secondo punto che riguarda inevitabilmente Firenze come città d'arte, patrimonio principe italiano e internazionale. Una norma che è stata votata, che ha fatto esultare il sindaco di Venezia, è quella della una specie di tassa di congestione per i turisti, cioè chi viene da fuori a Venezia potrà quest'anno essere chiamato a pagare una specie di biglietto d'ingresso dai 2,5 euro fino a 10 euro. Cosa ne pensa il sindaco di Firenze dell'adozione di misure simili anche per Firenze, dove ci sono spazi fisici, urbani, limitati, storici, intangibili da preservare, l'assalto di milioni e milioni di persone dall'Italia ma anche da tutto il resto del mondo si deve affrontare anche alzando il prezzo? Lei che dice? Allora, anzitutto questo è un tema che non si può affrontare in modo ideologico, no? L'abbiamo detto molte volte, perché riguarda aspetti oggettivi, concreti, come abbiamo detto. Le città d'arte sono invase dal turismo, del resto sono anche il traino del turismo italiano. Non dimentichiamo che è un settore dell'economia in crescita, soprattutto sui servizi, sul terziario avanzato. Se ricordo bene, anche nel 2018 ci siamo lasciati alle spalle, è stato superato, diciamo, ogni record. Le città d'arte nell'insieme in Italia hanno portato più di 115 milioni di presenze, che è un numero davvero elevato. Quindi senza città d'arte l'Italia non sarebbe quel paese libero. Tuttavia dobbiamo anche governare questi fenomeni, non li possiamo lasciare a se stessi, perché il turismo è quel settore dell'economia che però impatta su aspetti sociali, urbanistici, culturali, di tutela del patrimonio storico-artistico. Quindi non lo si può trattare come un qualunque ambito economico basato sul principio di totale liberalizzazione. Ci vuole una forma di governo. Ecco, mettere una tassa d'ingresso in alcune città d'arte può essere un filtro che scoraggia il turismo a mordi e fuggi, perché il grande problema del turismo italiano e soprattutto le città d'arte è la bassa media di permanenza. I turisti giornalieri consumano molti servizi, ma non lasciano ricchezza nelle città, non vanno in albergo, non vanno al ristorante, non entrano in un museo. Naturalmente questo si presta all'obiezione, ma ce l'avete con chi ha meno soldi? Oh, attenzione, infatti io pongo una questione di qualità, non di portafogli, perché ci sono tanti studenti giovani che vengono per stare una settimana nella mia città, per me sono un grande investimento, perché in futuro saranno cittadini più maturi, torneranno anche magari. Quindi non si tratta di introdurre una leva diciamo discriminatoria dal punto di vista economico, ma una leva che può essere gestita, ad esempio, derogando proprio i visitatori internazionali, giovani, studenti, ricercatori, oppure anche determinate altre categorie. Esatto, in maniera selettiva. A me anche selettiva. Sembra. Ecco, no, non mi sembra una cosa del tutto sbagliata. Quello che io ho detto, però, e purtroppo c'è un altro elemento di superficialità in questa manovra, non avrebbero dovuto fare una norma ad hoc per una sola città. Esatto. Perché in Italia ci sono almeno 5-6 città d'arte. Rischiamo di avere un vestito di Arlecchino, per cui a Venezia ci sarà la tassa d'ingresso, a Roma invece c'è l'imposta di soggiorno che però può arrivare fino a 10 euro, a Firenze l'imposta di soggiorno può essere fino a 5. Questo trovo che sia sbagliato, perché vuol dire allora che il paese non ha una strategia. Non ha una visione generale, appunto. Cioè, ecco. Ci sono sindaci con un accesso diretto al governo e altri meno. Questo è quello che vedo io. Naturalmente non lo attribuisco a lei, una mia opinione di rompiscatole, per così dire, di osservatore. Certo. Anzi, se posso fare una battuta, certo. Ecco, questa cosa dell'esercito tappabuche di 5 milioni di euro ad hoc per la nostra capitale per ripianare le buche, non è, a mio avviso, diciamo, corretta dal punto di vista del trattamento paritario di tutti, esatto, i sindaci delle grandi città italiane. Ma infatti non è piaciuto neanche il passaggio, secondo me assolutamente meritorio e dovuto, al capo dello Stato, ancora una volta parlando delle forze armate, contro l'uso improprio da parte della politica, perché ce l'aveva esattamente contro l'idea di usare le forze armate per tappare le buche che richiedono altro tipo di interventi e competenze rispetto a quelle di forze militari che abbiamo da anni volto a un sistema altamente professionalizzato. Io dico viva il capo dello Stato, mi dispiace cari ascoltatori, chi di voi pensa che questo significhi fare impropriamente politica, questo significa difendere il ruolo che chi serve lo Stato in divisa, ottemperando ciò che gli chiediamo di fare, cioè formarsi e specializzarsi, deve essere quello per cui le forze armate esistono nel nostro ordinamento, non deve essere quello di impropri sostituti ad hoc per mettere pezzi a colori su amministrazioni locali che non ce la fanno con i propri soldi, non ce la fanno da decenni, quello che volete voi, ma non usiamo le forze armate per questo. Secondo me è stato un richiamo istituzionale, non politico. Terzo tema su cui chiedo un'opinione al sindaco di Firenze, perché in questo fine anno il direttore degli Uffizi, Heike Schmidt, ha levato la voce, ha avuto vasta eco sui giornali italiani e anche internazionali, con qualche fastidio in Germania, perché dopo anni in quanto direttore degli Uffizi, dopo anni di pressioni, richieste riservate, andate a vuoto, ha alzato la voce e ha detto, in quanto direttore degli Uffizi, io mi auguro che la Germania dia una risposta ufficiale. C'è un'opera d'arte delle tante sottratte dai nazisti nell'Europa durante la Seconda Guerra Mondiale. In questo caso stiamo parlando di un'opera che è il Vaso di Fiori del pittore olandese Han van Huysum, che Firenze da decenni non riesce ad avere, perché in Germania poi dalle collezioni naziste è finito a un collezionista privato, e il direttore degli Uffizi ha alzato la voce e dice: beh, adesso la Germania però piantiamola, ci dia una risposta, perché le opere trafugate dei nazisti devono tornare dove stavano, in questo caso quindi all'interno delle collezioni del polo degli Uffizi. Come sindaco di Firenze, come l'ha vista questa levata di voce di Heike Schmidt? Beh, non è la prima volta che il direttore degli Uffizi usa degli abili espedienti comunicativi per attirare l'attenzione su alcune questioni anche serie, quindi la trovo, diciamo, utile. Anche perché ha usato questo, appunto, questo ha fatto questa cosa emblematica di mettere una copia del Vaso dei Fiori nello stesso punto, nella stessa sala dove appunto era in origine, mostrando ai visitatori che quella copia è stata di fatto trafugata. No, cioè, no, c'è un'indicazione esplicita che dice, sotto la copia, testuale, quadro rubato, sottratto alla sua naturale postazione dai soldati della Wehrmacht, cioè lo dice proprio brutalmente. Ovviamente la cosa ha fatto molto scalpore perché è un cittadino tedesco. È un tedesco che dirige l'edificio, che ha avuto il coraggio di richiamare l'attenzione proprio del suo paese di origine su questo punto. Secondo me ha fatto bene perché accende l'attenzione su una questione molto diffusa, cioè sulle tantissime opere d'arte che sono state trafugate dall'Italia durante i conflitti e durante anche le occupazioni e che non sono mai state restituite. E in questo caso sono in gioco anche il rispetto di trattati internazionali. Perché poi la cosa nel nostro caso viene da Napoleone prima ancora, ecco, quindi, ma anche Napoleone non c'è andata con la mano leggera, ecco. No, ma infatti Firenze purtroppo è una di quelle città che ha più da avere rispetto a molte altre. Io mi auguro ad esempio in questo caso il governo, tra le mille distrazioni che avrà, trovi il tempo di occuparsi di questo aspetto. Anche secondo me questa è un'ottima cosa, per cui il MIBACT e lo stesso Palazzo Chigi dovrebbe capire che su questo tema c'è una questione internazionale, non è una questione di dignità nazionale, picchiare i pugni, è una questione internazionale di grande rilievo, che però per i paesi che hanno il patrimonio che abbiamo noi, ma questo riguarda anche la Grecia, riguarda un po' eccetera eccetera, dovrebbe essere una grande questione di re-regolazione di dignità internazionale nel rispetto della tutela del patrimonio. Quindi mi sembra giusto che anche i sindaci, in quanto espressione di queste comunità che hanno una storia, una tradizione, si impegnino per richiamare il governo a fare cose come queste. E io apprezzo molto che Heike Schmidt, come tedesco, visto che in Italia molte alla riforma franceschina dicono che bisogno c'è di aprire i bandi per selezionare i direttori dei poli museali nazionali all'estero, ecco, guardate, è un tedesco che raddoppia la forza nella richiesta nei confronti della Germania. Quindi bisogna, le riforme non bisogna abbatterle quando si cambia quello del governo perché le ha fatte chi viene prima, bisogna vedere le riforme buone e quelle meno buone. Grazie intanto e buon lavoro e buon anno al sindaco di Firenze. Grazie a tutti di voi. Firenze Nardella, e andiamo a vedere un po' come la pensate con alcune telefonate che ho chiesto all'inizio della trasmissione. E mi fanno un segno, sì, ho capito il tempo, l'ho visto il time. Vitaliano, che ci chiama da Vicenza. Italiano, buon anno innanzitutto e grazie di averci chiamato. Altrettanto, buongiorno. Allora. Volevo semplicemente puntualizzare, premettendo che non sono della Lega, pur essendo veneto, che a me sembra che lo strumento della paura venga molto utilizzato anche dai partiti che attualmente sono all'opposizione, o mi sbaglio? No, ci dica però, che quello che penso io è secondario, perché è giusto che ci spieghi lei. No, nel senso che le urla contro il fascismo, contro il razzismo, eccetera, che però non vengono mai ben definiti, perché si guarda bene da definire che cosa sia esattamente in rapporto a quello che sta accadendo, siano un po' la stessa cosa. Sono d'accordo con lei, ma il punto è interrogarsi, non sto dicendo chi ha iniziato e perché, sto dicendo se... E su questo la penso come lei. L'individuazione del nemico da una parte e dall'altra, invece dell'avversario politico, identificandolo con ignoranza, asini, somari, prima categoria, oppure secondo, pericolose riedizioni di cose del passato, fascismo, nazismo e così via. Terzo, riedizioni nuove di minacce ancora più potenti da questo punto di vista, se questo criterio contrapposto, come dice lei, quindi su questo lo penso come lei, diventa il metro, allora io trovo molto fondato invece che ci sia un'autorità istituzionale che, come vede, se ha ragione lei, ancor più lancia un messaggio trasversale, dice torniamo a vedere le cose come stanno, cioè i fondamentali dell'unione che viene prima della divisione, della solidarietà prima dell'odio. Lei l'ha trovato improprio quel messaggio, Vitaliano? No, non è che io l'abbia trovato improprio, è che però mi sembra che venga letto solamente da una parte. Ah, ecco, questo lei dice, attenti al pericolo di strumentalizzazione politica. Esattamente. Se poi posso fare una piccola postilla su quello che diceva, credo, Nardella, giusto? Sì, era il sindaco di Firenze Nardella, sì. Che riguarda un po' le onlus, è una notizia di non molto poco tempo fa, proprio a Prato, è stata appena arrestata la dirigente di una onlus piuttosto grande per delle malversazioni rispetto ma per carità, ma che ci sia la necessità di distinguere, far chiarezza, credo, tutta la vicenda delle cooperative con gli immigrati ce l'ha insegnato, ecco, questo si figuri, se io non sono d'accordo. Di qui a raddoppiargli l'IRES a tutti, però vede che è come dire, si colpisce con un maglio d'acciaio ciò che ha bisogno invece di una cernita fatta, quella per i semi buoni e cattivi è un altro criterio, quindi attenzione anche lì, Vitaliano. Grazie all'intervento, ci abbiamo Stefano che chiama da Pavia. Stefano, buon buongiorno, anno e grazie per l'intervento. Ciao Oscar, buon anno a te e a voi. Eccoci. Niente, il tema dell'educazione civica, nel mio piccolo io ho sempre sostenuto che l'educazione civica dovesse far parte dell'educazione obbligatoria, e il mio ricordo di quando ero bambino, quest'anno io compio 60 anni, era che il nostro maestro, sebbene lui avesse un background del ventennio, ci insegnava l'educazione civica repubblicana ed era una lezione interessantissima. Noi durante la ricreazione da bambini giocavamo a quelle cose che avevamo imparato, per cui tu fai il sindaco, tu fai l'assessore, io faccio il presidente della Repubblica, tu fai il primo ministro, eccetera, eccetera, eccetera. E questo era il nostro gioco, cioè giocavamo a fare l'ordinamento dello Stato. Ma Stefano, io ti evidentemente abbiamo avuto insegnanti che avevano una trice comune. Pensa che a noi la scuola elementare, la scuola elementare, una maestra elementare, il cui cognome non era italiano perché era tedesco, si chiamava Belzer, nel mio quartiere proletario, operaio, basso reddito e con fortissimi problemi sociali, fortissimi problemi di integrazione, in quel caso gli immigrati erano quelli italiani che presentavano problemi di mancata integrazione, e noi avevamo ripetenti dal sud di età improbabili che venivano nella scuola dell'epoca mia, in cui ero giovane, abbandonati a se stessi, c'erano le classi differenziali, altro che il sostegno e il supporto. Vabbè, detto tutto questo, la nostra scuola elementare ci pregò di iniziare ad annotare in un quadernino a ogni crisi di governo cosa succede, cosa capivamo noi di che cosa stava succedendo guardando in televisione. E quindi il rito istituzionale previsto dalla Costituzione, delle dimissioni nelle mani del Presidente della Repubblica, gli incarichi, gli incontri tra partiti politici e il Presidente incaricato, la fiducia, eccetera eccetera, perché io l'ho imparato grazie a una maestra elementare che ci chiedeva con grande comprensione, perché poi ai bambini tutto questo sfugge, no, come è evidente nei dettagli istituzionali. Pensa un po', quando io crescendo, ti chiedo se anche a te è successa la stessa cosa, Stefano, dicevo alle generazioni successive oppure ai figli dei miei amici, ma per caso è capitato anche a voi, mi guardavano tutti come un marziano, dicendo ma tu sei andato a scuola, è una scuola di ricchissimi dove c'era, invece io venivo in un quartiere con problemi sociali molto forti e reddito molto basso, eppure questo è ciò che ci insegnarono, cioè ci accesero l'attenzione e la curiosità verso meccanismi anche appunto procedurali, istituzionali, e io li ho sempre ringraziati per questo. Ma a te, Stefano, è capitato di incontrare persone poi nella generazione successiva che anche loro avevano avuto l'approccio che hanno avuto con te, con me nella scuola, oppure hai trovato che la cosa si è persa per strada? Beh, la cosa si è persa per strada nei vari anni, finché a un certo punto vediamo che l'educazione civica non è più presente nella scuola, e se quando dici la parola la gente, ci sono ragazzi che non capiscono cosa sia. Cosa sia, letteralmente. E questo è drammatico, questo è drammatico. E mi unisco a te, quando tu mi dici era una scuola proletaria, la mia ugualmente era una scuola di gente semplice. Sì, mio sì. Padre era un piccolo borghese, ma amici miei, cioè i miei compagni di classe era il figlio del Verdumaio o insomma. Va bene, però, allora Stefano, noi dobbiamo chiudere. Io devo ricordare a chiunque è in ascolto che il termine proletario non l'ha inventato Marx, viene dalla divisione per numero di assi della Roma repubblicana. Quelli che non avevano un minimo per essere arruolabili, adesso sono a fare i figli, per cui erano i proletari, viene dalla Roma prerepubblicana. Grazie a tutti, continuate con Radio 24, ci sono anche alle 16 la versione di Oscar.